orecchio. Hola 10. Hola 10. Prova. Antonio Bomboro. Non ti sento da tanto. Come va? Bene, bene. Da puttana tutti, no? Così. Bene, tu? Sì, ti ascolto. Segnale forte. Anch'io sto facendo girare apparati. Questo è il terzo. Ho fatto girare il presidente vari giorni fa, poi il 5005, adesso il 7009. Sembra che pompi il pippero. Per esempio, questo Smithers 6940, che credo che sia il fondo scala, 9 più 40. Già, va bene, scappa. Sta entrando anche gente, almeno gli ultimi due giorni, o Giulio, o Gianni, c'è anche Torre Squalo, Pomponi, altre persone, dai, solito entrano 6:30, 7 così, se uno vuole farsi due chiacchiere, va bene, stavo carellando una propagazione, vabbè, il logo. Ma male mi sento questa radio, perché tutti si lamentano. No, male no, diciamo che la timbrica è un po' così, non cristallina, non è cristallina la modulazione, ma è capibilissima. E i gusti, e poi con 10 baracchini e lo stesso orecchio ti danno magari 10 controlli diversi, può essere. Comunque la capibilità c'è, quindi... L'importante è che non si intagliano i bruci, l'importante è visto. Stavo notando rispetto al rumore di fondo, la modulazione si può alzare per un po', sicuramente si può migliorare come volume, perché è un po' troppo lontana, la sento. Guarda ora, va meglio? Sì, un po' meglio. Questo è il 7009, vabbè, te l'ho già detto. Com'è? Tutto normale? Tutto normale, ma adesso penso che esca molto più forte. Ehi, t'ho sentito più forte però, vabbè che io sono col volume al minimo. Poi in questo apparato non mi ricordo a quanto dovevo mettere il volume, perché c'è proprio il numerino, ti compare, no? Però rispetto al QRM non è fortissima, boh, ci vorrebbe un altro corrispondente che faccia un passaggio. Chi c'è sul 10? Avanti. Guarda dove è ora, meglio qua. Sì, ma già ti sento, io già ti sento, nessun problema. Te l'ho detto, il volume tendo a tenerlo basso, però già va bene. Ascolta, ma stai lavorando anche nell'impianto audio, tipo concerti, roba del genere o altro stai facendo? Sì, faccio, ogni tanto faccio service pure. Ero a Madras, a Marcomero, ho fatto due serate. Ogni tanto faccio service, sto lavorando anche con un altro service sta lavorando. Ega, sai come la definirei la tua, Anto, la modulazione tua? Citofonica, tipo citofono, un po' la timbrica. Premesso che comunque si capisce, però è tipo citofono, ecco, quello lì è. Ambiente e stava appena appena innescato, cioè troppo forte, troppo brutto. Va meglio? Ia, cerca di non alzarla oltre, guarda se c'hai proprio appena appena appena di meno, come a rotella o a slider quel mic? Poi sono fatto di slider, va. Oh, però adesso è già una modulazione più potente, ecco. Va meglio ora? Sì, sì, va bene in città e anche fuori va bene. Ok, adesso mi preparo l'altro microfono, così vedo se qua va ancora bene. Questo è un microfono normale, il microfono normale ed è a condensatore. Buonasera al tuo. Buonasera a lei. Buonasera anche a Marco. Oh, ciao Gio Maria, ben sentito dopo tanto, come va? Piano piano si va avanti. Allora, come cucina? A recuperare. Speriamo bene, là. Beh, bisogna andare avanti, Gio Maria, purtroppo indietro non si può andare, indietro non si torna, così è. Stavo facendo il solito giro di apparati che erano fermi da tanto e basta, a vedere se entra qualcuno, così passare mezz'oretta, un'oretta. Ok, è un interrogativo, c'hai i 5.500, no? L'ho tolto poco fa. Per mettere quell'altro, il 7.900, lo sto usando fino al pomeriggio, dai, dimmi tutto. No, perché io sto usando adesso il 5.500 e c'è qualcosa che non va in questo, è nuovo, è da parecchio, l'ho preso da poco, e ci sono le strisce sotto, dopo le sacchette, ci sono i numeri da 1 a 30, quando faccio la portante spariscono, volo la portante e ritornano i numeri, come mai? Allora, aspetta, fammi fare mente locale, forse ci hai impostato qualcosa per vedere le stazionarie. Anch'io l'ho impostato così, come premi da me mi fa vedere le stazionarie, come mollo la portante ritorna al normale display, è che sono staccato, l'ho messo via, se no avrei guardato, perché potrebbe essere quello, sì. Ho provato, ma non ho... è sempre lo stesso, infatti adesso per esempio i numeri non ci sono, le sacchette vanno e vengono, sì, però dovrebbe esserci la striscia dei numeri fino a 30, invece no, perché non sai a quanto stai uscendo, capito? Ah, non vedi la potenza d'uscita? Aspetta un attimino, forse hai disattivato, però i segnali li vedi, sì? Ho capito. Ho detto i segnali li vedi però in ricezione, sì? Sì, ne ho due così. io tu così, anche i semi le nuvole è la stessa cosa. Anche quello spariscono, quella striscia dei numeri spariscono, strano. Tutto è perfetto, però non lo so. Ci penso qualcosa che non va. Ma ti spariscono sempre ogni volta che premi la portante o in modo casuale? No, no, è come abbasso la portante parlando, le strisce vanno e vengono, però i numeri spariscono, volano la portante e i numeri tornano a accendersi, dai. Ah, ma ti sparisce il frequencimetro, così è? Però le strisce vanno, ci sono le strisce, le tacchette, no? Ma sotto le tacchette c'è la fila dei numeri, da 1 a 30, quei numeri sto parlando, Marco. Ah, solo i numeri dello Smith là. Vabbè, un po' strano, no, perché ti spiego, l'apparato può disattivare lo smitter, c'è un tastino SRF che serve a disattivare solo lo smitter, che quindi rimane spento sia in ricezione sia in trasmissione, oppure c'è il tastino SWR che ti fa vedere le stazionarie quando trasmetti, ovviamente se non ne hai non sale. Però da te è diverso, cioè tu vedi le tacchette ma ti spariscono i numeretti, è strano quello, sì, potrebbe essere magari un piccolo malfunzionamento quello. D'altronde capita anche agli apparati nuovi. Oh, beh, faccio quando metto le cose dalle stazionarie me le segna giuste, però ci dovrebbe essere sempre i numeri per sapere quanti sono, a 1, a 2 o a 5, invece i numeri non esistono, capito? Le tacchette vanno e vengono, però i numeri che spariscono, è tutto lì. No, in effetti è strano, è qualcosa di, sicuramente lì magari c'è qualche, sai come si dice, quel cavo piatto, il flat cable, magari che si sente rotto qualcosa, che sia un po' un falso contatto, vabbè, capita, con i baracchini moderni capita, saldature fredde che poi anche dopo un po' che l'apparato cominciano a difettare. Però però niente di grave, cioè tu arrivi anche bene, certo uno lo vuole perfetto in tutto, però ti sento bene, modulazione ottima, segnale non ho guardato, a parte che non vedo niente, non, mi devo mettere gli occhiali, non ci vedo più bene da vicino. Tu sei 9:30, fondo scala, sì, va benissimo. Infatti, da parecchio magari va bene, solo che spariscono questi numeri mi sembra una cosa strana. Anche se 1009 così l'altro tipo, questo è il 5005, ma c'ho anche il 6009 che fa lo stesso lavoro, e sono tutti e due nuovi, l'ho preso l'anno scorso, capito? L'importante è che sia bene, però mi dà fastidio a perché spariscono questi numeri, c'è da essere qualche cosa che non lo saprei proprio dire, infatti è voluto chiedere a te se il tuo faceva quell'effetto. No, da me non lo fa, non l'ho mai fatto una cosa del genere. Sì, allora tu a questo smitter sei 9 più 25, questo diciamo è un po' più generoso, arriva fino a 9:40, 9:40, 9:45 anche arriva, là. Però il segnale è buono, vediamo se Antonio è rientrato. Sì, Antonio, sei già fatto. Quando mi piace, sono già fatto con bambino. Che sta sempre facendo il monello. Sì, ha detto che fa un attimo di bianco. E bisogna avere un po' di pazienza con i bambini da piccoli, mamma mia. Certo che. I bambini sono tutti così più o meno, dai. Certo, io ho un nipotino, certo che. Anzi, due solo, certo, sono due terremoti. non lo puoi fidare da soli, perché devi essere sempre appresso per interrompere tutto quello che vedono, e sanno sempre, e sono due demoni, insomma. E immaginare, mentre invece quell'altro, io ho quanto capito, invece è bravissimo, sì, un po', sono un po' visti, però non assai, però questi qua, i miei nipoti, sono due terremoti proprio. E vabbè, adesso i bambini sono anche troppo vivaci, perché non gli si dà un freno, fanno quello che vogliono quando vogliono. Vabbè. Al telefono Marco, un attimo. Eia. Vediamo se funziona. Ecco, prova. Prova. Non sento niente qua. Prova. Tranquillo, prova. Prova. 1, 2, 3. E fischia, vai, non è male. Ciao Marco. Dimmi. Sto chiedendo che sta avendo mia figlia. Sentiamo, grazie del tuo ragazzino Marco. Ciao, un cavallino. Sentiamo, alla prossima. Ciao. Eia, ciao Giomari, sentiamo. Dai, buon proseguimento di serata. Ciao Giomari, ci sentiamo. Buon punto. Ciao, anche a te, ciao. Ragazzi, dico. Lo senti tu? Arrivano, si accorti? Aspetta un po', un macello quella modulazione, è troppo forte, tende. Aspetta, sto controllando se funziona l'eco. Hola. Sì. Vedo che va. Anche questo va. Adesso lo posso spegnere. Per far lavorare tutte le funzioni, amici. Va meglio. Non toccare più. Non tocca, Jay. Così va bene in città. Prima era troppo forte. La volta non viene, mi ha fermato i carabinieri. In macchina? No, non la moto. Ma normale, con tutto normale, assicurazione, revisione, sì. Se il mezzo non è a posto, io non esco. Non ho capito. Se il mezzo non è a posto, io non esco. Non esco con il mezzo. Capito? Era tutto a posto, era. Prima mi hai chiesto se ascoltavo chi, perché avevo l'autoscolce inserito. Non so se c'è qualcuno da lontano che vuole entrare, avanti. Io non sento nessuno, Terminali della Nudre. Vediamo un po' qua, aspetta, ascolta, intanto senti la timbrica, solo la timbrica del mic, è proprio al minimo, l'ho regolato a 1 sarà, mi devi dire se ti piace più questa timbrica di modulazione o quella precedente. Uguale, va bene. Hola. Ma non hai preferenze, no, tra la modulazione di prima e questa, no, cioè potresti dire che sono quasi uguali? Certo che sì. Aspetta, vedo un segnale Santiago 7 Radio 0, però è come che avesse una voce fantasma, chi vuole entrare? Sembra quasi in FM peraltro. Sì, in TV, vediamo se è il caso di alzare. Hola, hola, no, sono a 20 centimetri, se parlo vicino tipo mic normale già andrà bene. Potrei alzarlo molto, ma non c'è bisogno. Non è lui, già andato in via la moto. Come? Rulli, gliel'hai cambiata la moto. La ruota? No. Rulli? No, nulla ho fatto, nulla. La ruota è a giumai, a dir poco fuori legge. I freni, vabbè, frenano. La marmitta è un po' rumorosa, i rulli da fare. Peraltro non voglio investirci più di tanto, perché se fai una cosa alla fine fai tutto, cioè se la porti è per fare tutto quanto. E quando sarò ricco e famoso la porterò a fare tutto. Scusa, se la moto di esempio deve essere a posto, non puoi lasciarla, non puoi dimorla bene. Sì, va bene, imparate che cammini e che freni, cioè che mai a marciare marcia, a frenare frena, e poi già c'è la macchina per tutto il resto. Vediamo se alzo un po', se fischia, non succede niente qua, ora 1, 2, 3, ora non vedo niente, non vedo, 1, 2, 3, vabbè, questi baracchini sono un po' strani, questi digitali. Certe volte non ti rendi conto se esce o no. Vai che andai, vai. Se no lo mettiamo a metà, ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Già va bene, già sta andando. Già funziona bene. E accontentiamoci di quello che passa al governo, vediamo. Non innesca, che strano, io salzo ancora. Adesso a manetta a distanza 30 centimetri, però qua non mi sale la barra dei picchi di modulazione. Ma si sente l'applicazione o no? Sì, mi sento. Aspetta, lo rimetto al minimo come prima. Sì, me lo voglio usare come fosse un mic normale, senza spaccare le orecchie a nessuno. Vediamo, il monitor, 1, 2, 3, eccolo là. Ciao, è già passato più di un anno, che ce l'ho su, questa antenna. Va bene, ho visto che va bene. Ah, la Energy, un anno ti ha fatto? No, è sempre quella, ho passato più di un anno e vedo che va bene. Chi ne ha toccato più la pena? Non ci sono più a farlo, sopra. La mia aveva fatto 11 anni, avevo sbagliato, non 12, 12 prima c'era quello schifo di Ringo, 11 anni c'è, mai toccata, e finché la barca va lasciala andare. Quello è, finché vai avanti. Ciao Tore, buonasera, in compagnia di Antonio Bombolo, prima c'era Gio Maria, poi è arrivata anche la figlia e ha dovuto chiudere. Riprendi, vai Anto per i saluti. Tore, mi ho sentito. Ho visto che la tua di Marindoccia. Cos'è? L'antenna tua, mi pare un po' buono. Ah, è dritta, dritta e dritta. Solo quando c'è vento è che si gocca. Guarda, qualche strappa. No, rimane così, rimane. E quando c'è vento che si curica. Cosa avevi tu, Tore? Prima di queste? Aspetta, abbiamo parlato in due. Che antenna avevi, hai detto? Io ho la canava a pesca. E poi c'ho un'altra antenna multibanda e un'antenna VHF e UHF da un metro. Ah vabbè, per quello, no, la canna da pesca è bella flessibile, giustamente flette di più, col vento flette di più. La nostra un pochino più rigida, vabbè, flette il giusto, dai. La struttura dell'antenna è quella. Però non mi posso lamentare per ora. Oh, mi lamento, perché quella si corica un pochettino, non si corica molto. Si corica se no un due metri la trovi piegata, perché c'è un tubo da 60 dentro. Anzi, la canna da pesca c'è un tubo che la mantiene anche. Eia. Tu stavi ascoltando da un po', o sei entrato adesso? Ma sono entrato adesso io. Alla fine della... sono tutto il giorno senza accenderlo. Era per la modulazione. Che ho fatto la prova con Antonio, però credo che siano pari e patta. Questo è l'amplificato, però messo a 1, come fosse un mic normale. Volevo capire se la timbrica era migliore, questa o quella originale. Se la vuoi, aspetta, abbasso il ricevitore. Ecco. Provo a mettere quello originale, vediamo orecchio cosa ne dici tu. Ah, uli uli, ecco qua, mic originale, stessa distanza dal mic. Quale preferisci di timbrica, proprio come timbrica, nemmeno come volume, quello lì o questo? Come volume è meglio questo, è più forte, è più chiaro, più forte, si può dire. Voilà. Potrebbe andare, però è meglio questa. Molto meglio questa. Ma infatti qua modulando vedo i picchi di modulazione, mentre con l'altro non mi dava i picchi. Forse l'ho messo troppo basso. Vabbè, casomai lo metto a metà, adesso lascio quello originale. Ma sai perché? Perché questo originale è di una comodità estrema, perché hai i tasti dei canali sopra il mic. Io, anche se sono magari di spalle all'apparato, sdraiato sul divano, premi da lì e ti fai la carrellata dei canali. E purtroppo ci ho fatto l'abitudine, quasi tutti quei baracchini hanno i canali sopra il mic e sono comodi. E quelli digitali di adesso sì, ce li hanno così. Ma quale c'hai tu? L'ultimo del 6600? No, al momento questo è il 7900. Ieri avevo il 5500, fino a ieri, due giorni fa il presidente, li sto facendo girare perché sono sempre fermi, alla fine non avevo più voglia di entrare, mi rompo le scatole subito, capito? Anche perché se ce l'ho testai 2 ore in radio e non combini niente in casa, però non combini niente, soprattutto quando sei da fare tante piccole cose, capito? E così è. E infatti, no, io un po' di roba stasera l'ho fatta fino alle 6, poi sono andato a prendere la signora e poi ho durato e avevamo mi sono attaccato di nuovo. Figa, ti sa che entri Gianni anche, insomma, chi vuole entrare? Con Gianni c'ero ieri sera sino alle 7:15, dalle 6:15 alle 7:15. È buono, dai, almeno non muore del tutto la 27. Poi propagazione anche non ce n'è, non puoi nemmeno fare di a parte che a quest'ora si allunga troppo. Vabbè, l'Italia la senti la mattina e il pomeriggio, poi si allunga la propagazione, allora becchi paesi molto lontani. Però a me piace più l'Italia, almeno parli italiano, puoi scambiare 2 battute, eccetera. Vai a tu. Ma che ora è che si può modulare da ora? Non ho capito Antos, perdonami, però ogni tanto la modulazione tua, la timbrica è, te l'ho detto, capibile sarebbe, ma alle volte non senti tutto bene. Ho detto, che ora è che si può modulare fuori? Dipende, non so, magari nella nostra banda la mattina e il primissimo pomeriggio senti più l'Italia, poi comincia a allungarsi, però poi li puoi sentire anche di mattina, portoghesi, spagnoli, tutto quanto, insomma, però tende a allungarsi con l'andare delle ore, capito? io una volta avevo fatto di ex proprio, ma era palla, era un pendio, un bel. Figa. Banda laterale poi è interessante perché riesci a magari avere più watt, in AM magari non arriveresti bene, in SSB gli arrivi meglio. K. L'FM magari lo vedo più per distanze medie, così da. Certo non avrò chissà cosa, però nel mio piccolo mi faccio sentire abbastanza forte. Marco, sì, yeah. Mi hai seguito? Sì, sì, già ho copiato. Sì, poi la propagazione fa il resto del lavoro, capito? Basta avere un'antenna sul tetto, anche dalla macchina mi sei, se sei in alto comunque fai dei diexoni che sono un bijou. Una volta, dopo il 2010, no? Quando sono entrato andavo a scala di gioca, roba del genere, oppure centro ecologico lì da quelle parti, c'è lì a quel punto più alto e arrivavano dei segnali talmente forti, ma era terrificante, sembrava di essere in stazione fissa, anche meglio. Però mi ricordo anche che io volevo fare DX in banda laterale, no? Sulla tripla 5, però arrivava un battimento, uno splatter terrificante dai camionisti sul 45. Perché all'epoca avevo un baracchino che comunque nei canali adiacenti prendeva abbastanza mondezza, ma certi splatter, perché quelli avevano modulazioni spropositatamente forti, capito? Segnali fondoscale, quindi ti sporcavano tutta quella fetta di frequenza. Però quello appunto era il punto più alto dei sassari dove andare, quindi arrivava di tutto, nel bene e nel male. Vai Tore. Quelli erano altri tempi, che cercavi il punto più alto. Era i punti più alti, più belli, solo che con certi apparati sentivi solo la mondezza. Era un Albrecht, quell'apparato là, era un Albrecht 5008, è venuto anche marcato Cobra o Magnum o cosa, Magnum 257 mi pare, però mi dispiace ma non era abbastanza selettivo. Questi in confronto sono molto più silenziosi, il 3009 anche, più pulito nei canali adiacenti come ricezione, quello era un piccolo, aveva un po' di troppe pecche in ricezione, capito? E poi un rumore, tu mettevi questo baracchino in macchina, ti mettevi un po' di squelci, no? Ogni segnal neon che beccavi a Sassa ricettivi, questo QRM è fortissimo, scendevi alle luci gialle, non le luci gialle, perdonami, scendevi anche per dire ottava, come aveva nella zona dei lampioni, nella zona abitata, no, dove ci sono più insegne e più luci, senti che il QRM si arriva a 9, così, proprio una friggitrice, terrificante, poi vabbè, mi aveva dato un po' di storie, un problemino l'avevo regalato, che poi è stato risolto, era una fesseria da fare, è stato risolto da un CB non che era di amatore, era una cosa semplice, però quello che me l'aveva venduto si era comportato male, non ha mandato in assistenza praticamente, l'ha mollato lì e non ha fatto niente, me l'ha rispedito uguale a prima se non peggio. Ah, lo sento ogni tanto, si sente una voce bassa bassa. No, allora io sento un micro segnale, cioè un segnale bassissimo tra il 6 e il 7, però la voce è talmente bassa che non è neanche uno, è come un... una voce fantasma, cioè non la sento, radio zero potrei dire, ecco. Ma non arriva a 8, ma la radio fa cagare. Ma sta parlando in italiano o è dall'estero? No, è roba estera, la roba estera, roba da fuori, ogni tanto mi apre lo squelch, ogni tanto, mi arriva a 8, capisco, però non è roba di nulla. Cavolo, è caldo questo apparato, nonostante stia usando 4 watt di apparato naturalmente, no? È caldo dal lato, secondo me è il lato modulatore, il lato del modulatore è caldo, è budendi, quasi non posso tenere la mano sopra, accidenti. Poi non hanno ventole questi baracchini, certi scaldano veramente troppo e non hanno ventole, non gliene mettono, però mettono una ventola da 5 euro. Non so, adesso è arrivato 9 quello lì, 9, segnale 9 è arrivato quello di fuori, è così, io c'avevo un baracchino che ho usato per tantissimi anni, poi si è sciolto. Che 550 power, se lo ritrovo me lo ricopro perché è una bomba, con il suo microfono ci va fortissimo. Io mi ricordo che in macchina ero rimasto deluso da certi apparati, vabbè, io ho usato sempre la base magnetica, no? Solo per fare le prove ho messo anche la massa effettiva, no? Con la staffa sulla carrozzeria, no? C'avevo una basetta, potevi mettere a cofano, a baule o a portiera, e gli ho fatto fare proprio la massa effettiva controllata col tester. E ti spiego, mettevo questi alcuni baracchini in macchina e innescavano, non c'era niente da fare, allora ho provato. Ci sito piuttosto. Dore. No, io che c'avevo un... aspetta, come si chiamava? C'avevo l'antenna con la calamita. Però funzionavano benissimo, non ho avuto mai di mettergli massa io, hanno funzionato sempre bene. Ehi. E io praticamente alcuni apparati, tipo il 9009 e il 5005 proprio, che sarebbe il 6009, in macchina non c'era verso, ho provato allora con la spina accendi sigari innescava, con la batteria diretta innescava, abbassando la potenza innescava lo stesso, con la base magnetica innescava, con la massa invece con l'antenna proprio con la staffa, la massa effettiva, gli ho fatto la massa riportata pure, niente, non c'era modo, in tutte le prove fatte questi apparecchi innescavano per probabili rientri di RF, cosa però che altri non ha fatto. E ho pensato che fosse comunque l'alimentazione, rientro ad F che passasse dal cavo di alimentazione, che peraltro te li danno belli lunghi, e guarda, in certi apparati infatti raccomandavano, dice, per l'uso mobile si raccomanda di utilizzare un cavo di alimentazione più corto possibile, perché già dalla batteria io c'avevo un cavo che arrivava, ma era bello lungo, ma arrivava bello comodo sotto il sedile del passeggero, anzi faceva anche il mezzo giro del sedile, e quindi probabile che entrasse da lì e rientro di RF. E quindi in macchina non li ho mai potuti usare, con la macchina vecchia, con la macchina nuova, tra virgolette, non ho fatto alcuna prova, mi sono rotto le balle. No, io ho portato dalla batteria, e ce l'avevo sotto il cruscotto, ce l'avevo e l'avevo fatto l'impianto io stesso, ma non mi ha dato mai fastidio, ha funzionato sempre bene. E questo era grosso come apparato. Era M, MC, mi pare che si chiamava, non me lo ricordo, KM, boh, una cosa del genere. KM, ma l'apparato, KPO può essere? Boh, non me lo ricordo come era. Ci aveva tutto, ci aveva. Anche il tassino per il filtro ci aveva. L'avevo portato da fuori, l'avevo portato. Aveva venduto uno di Napoli, un camionista me l'aveva venduto. Aveva quasi 100.000 lire me l'aveva lasciato. È un peccato qua che non li ho potuti sfruttare dalla bara mobile, magari sarei stato più invogliato a portarlo. Questo mi pare andasse bene, 7.900 non aveva problemi, 3.900 ovviamente va benissimo, anzi il più silenzioso, in macchina è il più silenzioso, prende meno mondezza, meno rumori di ventole, meno tutto. Il presidente manco provati, la verità, il presidente non mi ricordo nemmeno se l'ho provato in macchina, quello con l'SSB, non mi ricordo. E così come non ho mai provato l'LMS 200 in macchina, quello di 40 anni fa, per sapere almeno se innesca, se non innesca, però di quello non ho la staffa. Dovrei andare a Bricone e prendere quelle staffettine forate e farmene una, con quelle ad angolo mie. Buonasera a tutti, è il doppio rumba questa pasta, guarda. Abbasso un pochino, dai, c'è un bel forte. Ciao Gianni, ciao, ben entrato. Tutto leccato. Ah, perché c'è la lecco dell'apparato, non me l'ho accorto, dai, forse spolverando il tuo cazzo. Stavo parlando di problemi in macchina, di rientro del RF, che certi apparati non li ho potuti mai usare quando avevo la Opel, non so perché. Tutte le prove fatte già, te l'avevo raccontato, no? I watt mi si è messi a 2 watt, niente, innescavo lo stesso, sicuramente erano rientri di RF. E poi adesso che dipende anche dall'antenna, e magari se avevi stazionato in antenna ti può succedere quello. Ma a me non me l'ha mai fatto, Marco, questo problema, sinceramente io, sai, avevo la Opel, già l'hai vista, avevo la Seciano Vego, e non me l'ha mai fatto questo problema, io ne ho montati diversi di apparati, ma non me l'ha mai fatto. Non lo so, adesso che cosa ci stai mettendo in macchina nella nuova? Nulla, c'ho nel cofano buttato quell'Intec 150M con l'M93ZG, l'antenna, ma c'è niente, è tutto nel cofano, mai utilizzato. Infatti ho paura che il caldo possa rovinare qualche plastica, soprattutto la guaina del mic. Non ne sto più mettendo già, per parlare di cucchi col muro, cioè se la mattina magari entrasse qualcuno, ti ricordi una volta, vabbè, entrava la buonanima, entrava Giulio, però adesso giustamente rischi che parli davvero col muro. No, ma se io so che c'è gente in macchina, lo metto, capito, me ne vado in giro e parlo, già lo sai che io me ne vado al quadrato, quando vado in banca mi fermo lì al quadrato e mi faccio una chiacchierata. E Giulio mi ha detto che la mattina stava entrando, che questo gruppo, l'uomo che hanno messo in continente, forse a Sicilia, praticamente fa di ex, capito? Oddio, che canale è? Ma diversi canali, non è un canale monitor, però loro vogliono diversi canali, capito? Non vanno sempre in quel canale, vanno dove c'è gente, dove c'è di ex. Ah, poi entro in un gruppo WhatsApp, cioè ci avranno un canale WhatsApp dove parlano qualcosa. E quando c'è propagazione magari si tenta di fare di ex. Però, vabbè, poca roba. Si è chiusa, hai visto già? Non è da giorni che non sento più quei segnaloni belli di prima. Ma con questo inquinamento atmosferico dei telefonini e tutto quanto, la propagazione ha diminuito. Però qualche cosa c'è, Giulio mi ha detto che ha fatto diversi collegamenti con Furie. Ci sentiamo, che devo chiudere. Ciao ciao. Ciao Anto, ciao, buona carica. Ciao ciao. Ciao Anto, buona carica. Ciao Anto, stammi bene. Ciao Gianni. Ciao Antone. E noi non siamo salutati dalla fretta di parlare, ma era solo inteso che ci avrei salutato. E a Rusoka che mi saluti. È così, Comunque le su per la macchina, a me non mi ha dato mai fastidio. Ha fatto l'impianto anche adesso, mi lo attacco, accendi i sigari e funziona lo stesso. Sai che c'ho i fini. Io c'ho tutto l'impianto, ho fatto con i cavi grossi, quelli che usano per fare le gare di musica delle macchine, dai. Wi-Fi, hi-fi, quei cavi grossi arancioni. Ho bisogno che passi da quello di via Montello e Merubiglio o via Coso, come ti si chiama, o 2-3 metri. E la pudi, perché non ho fatto l'impianto io? Ma me lo voto io l'impianto, me lo voto. Tu pensi che non lo sappia fare? Anche io lo so fare, però loro lo fanno, cioè, lo fanno diversamente, fregatele. E lo fanno bello ordinato, col filo che arriva giusto giusto, tutto perfetto. E non vedi, non ha la bizzica che sul piano. Quello sì. Io ti attacco le loro cose e le metto sotto i... O l'attacco l'accendisigari, le stacco quello che c'è. Del Bonghichivi. Loro mettono la fascetta e capicordia, armoni di tutto, quello che ci vuole mettono, capito? Ma quegli altri che li ho pagato 50 euro per fare tutto l'impianto, mi volevano bucare anche il tettuccio, gli ho detto di no, perché non volevo bucare la macchina nuova. Ci metto la base magnetica e funge bene, con la base magnetica è una bomba. E anche io ho un viraggio con la base magnetica, non ce l'è, bella grande pure. Oh già. Sì, Marco, dimmi. Ma tu il baracchino ce l'hai sempre in macchina fisso nel cruscotto, perché io lo metto poco anche perché è una rogna, io sempre ogni volta devo pigliare l'apparato con la staffa, mettere quelle viti, chiudere con quelle viti a galletto, mentre il tuo era perfetto come sistema, almeno nella macchina di prima, adesso non mi ricordo già, non mi ricordo nemmeno se ce l'hai con quel coperchietto scomparsa. Quello è un bijou, perché non fai altro che poggiare l'antenna sul tetto, sul tettuccio ed è pronta. Io devo piazzare tutto. Se lasci roba in macchina qua, ne trovi quattro, ne trovi. No, non lascio in macchina, lo tolgo. Sono quattro viti da smollare. Tu di cui quando ti serve lo rimetti. C'è l'attacco di così Eclipse. Praticamente stacco quello e me la porto a casa. In casa ma che la subisce, bruciate il cuzzetto io, questo apparato mio. Lei, poi nell'altra macchina veniva meglio mettere quelle viti col galletto, cioè in un attimo vedevi proprio dove usciva la vite, invece in questa è più rognosetto, perché devi attaccare la staffa, le viti passano sul cassettino che apri, nella parte inferiore quasi nascosta del cassettino, e non c'è spazio nemmeno in verticale per avvitare bene, è un po' una rogna rispetto all'altra, un po' più seccante, là poi tutto è fattibile. Ma dentro il cassettino non ci sta. No, nel cassettino però non voglio i documenti, le cose principali, le cose più importanti, la piletta, il cassettino deve rimanere vuoto. Cioè, non vuoto, vuoto con la roba di bordo, la dotazione di bordo. Vabbè, io l'ho messo nel cassetto, nella station wagon lo lasciavo fisso, perché l'ho messo nel cassetto, era abbandonato, non abbandonato, e l'ho messo con la carta biadesiva. Le strade attaccate con la carta biadesiva non si muovevano di un millimetro, qui a fianco c'è un basilare e praticamente dall'altra parte uno straccio per non muoversi. Andava di lusso quello lì, adesso boh, che voi, te lo ricordi? Tu alludi al quel 48 che avevi prima o tuttora ce l'hai, non mi ricordo già, ormai la memoria mia è... No, quello lì l'ho venduto a Urbia, l'ho venduto a un artista di Urbia che veniva a portarci la merce con l'autotreno, e un giorno me l'ha visto e se ne stava andando, io avevo finito di lavorare, gli ho detto, me lo vedi il mio baracchino, l'ho fatto vedere, che bello, me lo vedi, me lo vedo, però io l'ho pagato 450 euro, questo qui meno di 450 non te lo do. E me è tasco, me lo vedi subito, te lo do subito, ce l'ho in tasca e su. L'ho smontato, se l'ho dato, io lo devo fare. Oh, solo Gianni riesce a vendere la roba allo stesso prezzo a cui l'ha comprata, perché c'è sempre un certo deprezzamento, no? Di una cosa usata, più o meno usata. No, quelli non è perdono valore, quelli sono modificati da gente che li sa fare. Quello lì era il primo di Gigi, quello che ha avuto Gigi Vulcano per primo, ha detto che lui non l'avrebbe mai dato. L'ha dato a me perché era un amico, perché se non l'avrebbe mai venduto. Io gli stavo facendo la corte e alla fine me l'ha dato, ma me l'ha fatto pagare così. Di meno non lo do, perché c'aveva tanta roba, c'aveva camera eco, con la coda finale, eco colt, con l'eco finale, e poi c'aveva bip secco, 120 canali, era tutto azzurro, tutto bello di notte. Ci avevi visto tu, cazzo? Sì, sì, ricordo di averlo visto, però non ricordavo se ce l'avevi ancora. Ma per caso aveva una bandierina americana sul display, qualcosa del genere? C'aveva, c'aveva sopra il coso di Lucchitti. E Lucchitti, boh. Vabbè, l'hai dato, però se ti piaceva magari potevi tenerlo. Eccolo, era una bombetta, per la M, per la macchina era una bombetta. Marco, io dovevo vendere la macchina e a casa non andava bene perché prendeva splatter, quindi l'ho venduto per quello, se no l'avrei mai venduto. Se non andava bene a casa non l'avrei mai venduto. Eia. Riguardo l'antenna in macchina, per le prove fatte, guarda, non sono sicuro, però credo di avere cambiato anche antenna, di aver messo sia sulla base magnetica che sulla staffa, anche con l'antenna, quella nera di un metro, quella frusta nera della LEM, che poi era il radiale della, identico al radiale della Boomerang, anzi quella che avevo io era proprio il radiale Boomerang, ma era identica a quella frusta nera che vendevano 30 anni fa, e poi l'avevo regalata a Natalino. Avevo provato anche con quell'antenna lì, niente, rientri via RF lo stesso. Poi, ricordo, l'antenna mia non aveva stazionarie, sempre uno sta uno, cioè al 19 uno sta a uno, non esistevano le stazionarie in macchina. Sì, sì, sì. Ma anche le mie sono così le antenne, non ce l'ho più le uno. Però le avanti. Sì, ma io c'avevo questa qua tanti anni fa che usavo in macchina. Però non mi ha dato mai fastidio di nulla. Poi una di Mauduito, cosa è? Dice, me lo vedi, ti vediate per oggi in dubbio, e me ne sono disfatto di tutto. Ma poi te ne pensi, capito? Perché i soldi finiscono, poi non c'è più nulla, ne dirà e ne baracchino. Invece quando c'è il baracchino ti rimane. Ma non l'ho adoperato più per tanti anni, Non ho messo più nulla per tanti anni. Sono stato roba di 10 anni che non entravo. Lo so perché la frequenza l'abbiamo ripristinata io, Natalina e Claudio, perché prima era morta, non c'era nessuno. Un giorno ci siamo trovati, ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto un giro di telefonate, abbiamo fatto rientrare un po' di gente, perché se no era morta, sentiva solo quel rap. Quelle cose non ci sono mai mancate a me, perché io ascoltavo se c'era gente, ogni tanto l'accendevo per farlo scaldare, però gente non ne stava entrando, ma proprio nulla. E poi ho scoperto che la domenica entravano Gio Maria e come si chiama, Mario Mao, e allora sono entrato qualche volta. Ehi, ehi, ehi. e poi molti magari sono rientrati, però ho visto poi sono stufati o battibecchi o bisticci, perché ce ne sono stati e la gente si rompeva le palle e ritornava nell'oblio. Vai Tore. Sì, infatti io per quello avevo venduto tutto, non ho detto catta, non c'è più nessuno, cosa mi rode in gaffa, come l'ho venduto. Ci ho tenuto l'antenna con la basetta e buf. E l'alimentatore mi era rimasto. Tutto il resto, gli apparati erano tutti venduti. Vabbè, e se non li usavi cosa te ne facevi? Però io non l'avevo venduti tutti, ne ho tenuto uno e lo usavo col booster per caricare le batterie delle macchine, lo usavo con quello e con un linearetto con una 747, il portatile c'avevo. E ci avevo. Sì, infatti il 203, peccato il 747 è fuori catalogo da anni ormai, e lo trovi giusto alla GBC, però GBC deve averlo da secoli, mi 747, capace pure che i condensatori si siano asciugati dentro, non mi fiderei tanto a comprarlo, tanto vale già, conviene ricorrere al 203, il RMKL 203, che poi è questo, mi praticamente è sempre attaccato. Scalzone, ma poi la GBC rivende sempre molto care le cose. Quando costava una cazzata su, quanto costava, te lo ricordi, 40 euro, mi pare che aveva già 90 euro. Perché lui segue il listino, mi pare seguiva il listino Midland, cioè come c'è scritto sul coso Midland te lo fa pagare, sono prezzi fuori mercato. Comunque anche questo è rincarato, il 203 lo trovavi lo stesso 40 euro più la spedizione, e adesso aggiumai quasi 70 euro con la spedizione. Ma sono passati tanti anni da quando ce l'ho, credo di averne cambiato anche uno l'avevo forse dato, venduto o regalato, forse a cosa, adesso non mi ricordo se a Leoncino, non me lo ricordo, sono passati troppi anni, però credo che sia il secondo RMKL 203 che ho, e come vedi saturazione nulla, bello cristallino, io avrei ricorso a questo se uno vuole avere quel tanto pochino in più rispetto al baracchino, capito, di watt. Se io attacco l'altro, c'è lo stesso quei watt lì. Sì, sì, però sai, con 203 qualsiasi anche omologato che attacchi c'hai già la power. Vai, ore. Oh, io c'avevo un affare che tanti anni fa che usavo molte volte.